Venerdì 6 aprile del 2012 alle 10:24 torna in voce Radio Onda Rossa dopo la rassegna stampa del venerdì mattina. Torna con una trasmissione che si chiama Rome a Roma e poi con varie corrispondenze delle lavoratrici in lotta di Tivoli, da altre, altre corrispondenze nel corso della mattinata, che finirà col GR delle ore 13, anche di Venerdì Santo, sì. E quindi 06 49 17 50, il numero di telefono di questa radio, ondarossa@ondarossa.info, la mail generale per scrivere, e poi noi alla fine rispondiamo, ne teniamo pure conto, ve ne renderete conto pure voi che avete scritto e che poi siete stati chiamati, che avete proposto approfondimenti, che avete dato notizie, insomma è una bella comunicazione, un bello scambio. E poi c'è il conto corrente postale 6180 4001, uno dei tanti modi per sottoscrivere e fare vivere questa radio da 35 anni senza padroni e senza pubblicità. Conto corrente postale intestato a Radio Onda Rossa, Via De Volci 56 00185 Roma. E quindi prima di cominciare la trasmissione che si chiama Roma Roma, vi leggiamo quello che succederà la prossima settimana. C'è una settimana di lotta NOTAV qui a Roma che comincerà alle ore 17 con un presidio l'11 aprile a Piazzale Tiburtino, poi il 12 aprile, hai detto Monnezza, discussione con i comitati sul nuovo piano rifiuti, alle ore 17 del 13 aprile cementificare il mondo, discussione con i comitati contro la cementificazione, alle ore 10 del 14 aprile corteo no inceneritore, andiamo tutti e tutte insieme al corteo ad Albano, il 15 aprile siamo tutti e tutte NOTAV, chiacchierata con alcuni abitanti della Val Susa. Il comunicato dice, il comunicato del manifesto ci dice, l'11 aprile la Val di Susa chiama nuovamente alla mobilitazione, questo è un appello che è rivolto a tutte le persone che in questi lunghi mesi di occupazione militare, di lotta e resistenza si sono schierati in ogni dove a fianco di chi si oppone al progetto del TAV. Le ragioni NOTAV si trovano in ogni ospedale che chiude, nei finanziamenti negati all'istruzione, in ogni pezzo di terra ceduto alla cementificazione, in ogni persona che perde la casa, nei licenziamenti indiscriminati, in ogni persona privata della libertà. Il 27 febbraio scorso Luca, un amico e un compagno, ha rischiato di morire nel tentativo di intralciare l'esproprio delle terre della Maddalena. In quell'occasione hanno occupato militarmente un altro pezzo di terra, l'hanno cintata con reti, gersi e filo spinato. Il prossimo mercoledì 11 aprile gli ufficiali giudiziari ratificheranno l'esproprio delle terre dei Valsusini. Un'ipocrisia legale sancirà così l'allargamento del cantiere e da quel giorno le ditte potranno cominciare di fatto i lavori. Sarà una settimana in movimento per portare la valle in città, una settimana di lotta contro quelle politiche speculative che stanno trasformando ogni pezzo di mondo in un'occasione per fare profitti. Una possibilità per connettere le resistenze che si stanno opponendo a questi folli progetti. L'esperienza di autogestione degli orti urbani, ai comitati contro le discariche e gli inceneritori, dalle lotte contro la cementificazione selvaggia all'occupazione di spazi contro le speculazioni. Dalla lotta in Val di Susa a quella contro l'inceneritore di Albano, anche questa volta i NOTAV ci saranno. Con creatività e determinazione saremo lì e saremo ovunque sia possibile inceppare la macchina dello sfruttamento. Partout, tout le monde dit que la plus belle ville du monde est sans doute Paris. Ça ne me vexe pas. E ulteriori informazioni ci sono su romanotav.info. Moi j'aime ma cité et c'est pourquoi j'y vis. Dans la compétition au titre par catégorie. Si Paris est la plus belle, Marseille est la plus jolie. La canne bière, le vieux port et Notre-Dame de la Garde. Les réformés, le cours Julien, la plaine et la Charles. La rue Louban, Palais Longchamp, 5 avenue, boulevard Charles. Rue de Lyon, la place d'Aix, le cours Lyoto et Castellane. C'est un... Ed ancora alle 10.30, due comunicazioni di servizio. Chi vi parla non ha il cellulare, quindi per mandare, per dire delle cose, per comunicare con questa voce, per dire delle cose inerenti anche e principalmente alla conduzione di questa mattinata, dovete usare lo 06 49 17 50. E poi un'altra cosa non meno importante: chi vi parla aderisce al Fronte Popolare di Liberazione dal piuttosto che e dall'assolutamente sì, aggiungerei anche assolutamente no, e tra pochissimo andiamo in voce. Assolutamente sì, andiamo in voce. Spéciale dédicace à tous les amuseurs, à ceux qui font danser les Marseillais, à tous les ragamuffins, les rockers, les rappeurs, et à tous ceux que j'allais oublier. J'écris une épitaphe, encore deux ou trois taffes, j'enterre la tristesse et le stress. Je profite du rythme, j'assure l'intérim, j'évacue la pression, je me redresse. Fais bouger tes pieds, tes genoux, tes hanches et puis tes épaules. Plus on rit, plus il y a de fous, plus on est fou, plus on rigole. Il faut chanter avec passion, organiser des farandoles. Écoute, fais bien attention, mais apprends vite les paroles. C'est un rendez-vous à Marseille, là sur le quai. Voyage au pays des merveilles, ensoleillé. C'est un rendez-vous, dépêchez-vous, avec la cité qui vous rendra fou. Vai avant, valim un picciu, siamo pure gang, di Lucantù. Ed a proposito di cementificazione selvaggia, anche Marsiglia ne ha subita tantissima, ha subito il fatto di essere stata scelta come città che doveva diventare una città molto più attraente di quello che era, secondo appunto le agenzie immobiliari, per cui anche questa città e i suoi abitanti hanno subito tantissime desplasiazioni, scusatemi il neologismo, perché bisognava rendere questa città turistica, bisognava mantenere il fascino della città piccola e mediterranea, dove tante persone provenienti da tanti posti diversi, perché questo era ed è diciamo la caratteristica di quella città, come di fatto è la caratteristica dell'Italia e dell'Europa comunque, però lei ce l'aveva di più, e bisognava prendere la parte iconografica e lasciare però le case carine per i turisti o per quelli che volevano essere marsigliesi per il fine settimana. Anche lì, stranamente, contro la cementificazione non si opponevano tutti quei partiti e tutte quelle organizzazioni xenofobe e razziste che parlavano invece di ripulire Marsiglia dai delinquenti, dagli arabi, dai profughi, dagli africani, dagli zingari, dagli spagnoli, da tutti quelli che nel corso dei secoli hanno trovato a Marsiglia la loro città. Perché? Perché poi si è scoperto con delle indagini, perché insomma anche in Francia ci sono le indagini, che la destra xenofoba e le agenzie immobiliari avevano qualcosa a che vedere, insomma, che questo razzismo era anche una questione economica e che bisognava creare il problema della sicurezza per poter agevolare le possibilità di sgomberare senza tanta opposizione, che poi in realtà c'è stata. Insomma, si scoprono tante cose in giro per l'Europa e poi alla fine si scoprono pure qui. I partiti di cui adesso sentiamo parlare a uno sono vittime degli scandali, e non sono scandali nuovi, perché insomma l'ultimo partito razzista e xenofobo coinvolto dagli scandali lo sappiamo purtroppo tutti, perché ci hanno fatto Una testa così è il partito della Lega. Chiaramente quello che ci diranno è che insomma Bossi si è dimesso perché, essendo un vero leader, non vuole mettere il suo partito in difficoltà. La colpa è della moglie e dei figli, perché insomma lui onesto era, ed era tanto onesto che insomma la tangente Montedison, per cui venne processato durante il famoso processo di Tangentopoli, insomma lì lui era perfettamente funzionante, perfettamente leghista, e perfettamente non era prima della malattia, prima che la moglie cattiva prendesse le redini di questo cerchio magico. E insomma, tante scuse quando si scopre che chi parla di sicurezza in realtà la crea l'insicurezza, che chi parla di caccia ai ladri in realtà ai ladri genericamente, senza specificare che cosa significa. Cosa significa? È la differenza che c'è tra rubare una cosa di poco conto per la propria sussistenza e invece rubare dalle casse della cosa pubblica per il proprio interesse personale. Insomma, quando non si fanno queste specifiche, quando si crea panico e consenso sulla paura tra i cittadini, poi alla fine a volte chi sputa in cielo in faccia gli torna, e la gente che parlava di sicurezza e legalità, come per esempio Lusi, grande sgomberatore di Rom in questa città, che diceva che gli sgomberi bisognava farli la mattina presto, perché la gente, i delinquenti, bisognava prenderli di sorpresa mentre dormivano, perché chissà se no dove se ne andavano. Insomma, sta facendo la figura che sta facendo, dicendo: se parlo io finisce tutta la sinistra. E insomma, bel esempio di onestà morale, insomma, nelle parole, insomma, che si vedono scritte sui giornali. Dopodiché siamo in Italia e la gente come Lusi ha diritto di essere giudicata e di essere ai diritto ai 3 gradi di giudizio, e non è giudicata colpevole se non dopo i 3 gradi di giudizio. I poveracci e le poveracce invece vengono sbattuti in prima pagina. Questa è l'Unità d'Italia e questa è la democrazia in questo paese, e anche su Bossi insomma si sta cercando di e fare capire insomma che forse c'è dell'osco, che forse c'è del torbido. Ma insomma, un partito razzista e xenofobo che parlava di tutto il resto che non era leghista, come di corrotto e marcio, si ritrova al centro, come tutti, di una grande speculazione e di un grande storno di denaro pubblico, privato. Comunque non c'era trasparenza, come ha detto il presidente Napolitano. E allora andiamo avanti dopo questa forse inutile premessa, e parliamo di quello che succede ai Rom nella nostra città e anche un po' più in là. Là sur le quai. Ed allora cominciamo non senza un tributo, appunto, all'ex ministro dello Stato italiano, ma dobbiamo assolutamente rispondere al telefono. Scusate. Balletti dei radali, farendo sali pulito, per l'uggio e per l'utruvale, lei sono un passa. Le musiche, lei si strambò, lei si storie del tuo e le por, per cantarsi un tuo giorno d'accordo, lei sono un passa. in la plaza, già mai lasso, para basso, senza 30 anni, in la testa, la volesta, di la vita senza predicare, in la plaza, c'è de casa, disistrasse, si ne muore un po', in la testa, c'è de testa, lei sta non passa. Tu è la ribotto dei frata, ed allora andiamo a vedere addirittura che cosa ci dice un organo abbastanza inusuale, citato pochissime volte giustamente anche da questi microfoni. Il ministro e leader della Lega Nord, quando era ministro, fa un discorso xenofobo e ispirato all'antiziganismo, un classico caso di hate speech. Ma se è un ministro che parla, il suo intervento deve essere riportato, giusto, ma se avesse parlato di ebrei anziché di rom e di musulmani? Questo ci diceva il 20 maggio del 2011 Lorenzo Guadagnucci, perché lui fa parte di un'associazione che si chiama Giornalisti contro il razzismo, cioè giornalisti che hanno cercato di autoregolamentare e di ragionare sul linguaggio da essi usato nello scrivere sulle colonne dei vari giornali dove loro lavorano. E ci dice appunto: può un cronista ignorare certe espressioni, certe parole, dal momento che esse sono la notizia, obiezioni giuste che proponiamo a noi stessi, visto che ci battiamo affinché il mondo dei media svolga un ruolo responsabile e non sia complice dei movimenti xenofobi e razzisti ben presenti nella società e nel mondo politico? Prendiamo l'ultima uscita del ministro Umberto Bossi, stiamo parlando del 20 maggio del 2011, ha dato del matto al candidato sindaco di Milano, motivando simile epiteto con la volontà di trasformare Milano in una zingaropoli, perché Pisapia prevedeva programmi di autocostruzioni e di abitazioni da parte di famiglie rom senza casa. Nel programma elettorale però è specificato, ce lo specifico io questo. Inoltre lascia intendere il fondatore della Lega Nord, con Pisapia si fermerebbe la politica degli sgomberi dei campi rom seguita dalla giunta Moratti, e quindi la città di Milano diverrebbe la città degli zingari. Nel suo intervento Bossi ce l'aveva anche con i clandestini, le moschee, indicati come incompatibili con Milano. L'operazione di Bossi è molto chiara, gioca sulla competizione elettorale la carta della xenofobia e dell'antiziganismo, secondo i canoni dell'estrema destra, e tuttavia le sue parole sono granissime, per toni razzisti e discriminatori. Cosa deve fare un giornalista di fronte a simili interventi? Nous balletti des radas, les farines dans ça, les poulidors, per le joy et per le trouva, les sons non pas ça. Les musiques et les estrambores, les histoires de tous les ports, per cantar siamo toujours d'accord. Ed allora che cosa si chiede questo giornalista? Il presidente della Federazione Nazionale della Stampa fa notare che il discorso di Bossi è un classico caso di hate speech, discorso di incitamento all'odio. Nei manuali di deontologia si mettono in guardia i cronisti verso simili interventi politici che hanno un potente effetto di legittimazione del discorso razzista. In Italia però si tende a sottovalutare il peso degli hate speech, che tra l'altro è stato usato in maniera indiscriminata nella propaganda elettorale sia di destra che di sinistra, aggiunge chi vi parla. E interventi come quello del ministro leghista vengono riportati senza troppe precauzioni, con la giustificazione che quando è un ministro a parlare le sue parole sono la notizia e quindi le sue parole non possono essere taciute o edulcorate. Ma ci sono almeno due elementi da considerare. Primo, che è sempre opportuno fare esercizio consigliato da molti manuali di giornalismo interculturale, perché esiste anche questo, per capire fino in fondo la portata dell'hate speech, cioè è utile a provare a sostituire il soggetto coinvolto nel discorso dell'odio con un altro che sia meno sottoposto a stereotipi o giudizi negativi, o rispetto ai quali sono stati compiuti percorsi di consapevolezza etica e culturale. Nel caso specifico, ci dice il presidente della Federazione Nazionale della Stampa, che se sostituiamo ai rom e ai musulmani gli ebrei, ecco che il discorso di Bossi suonerebbe così: il futuro sindaco di Milano è matto, vuole Giudaopoli, una Milano degli ebrei e la costruzione di sinagoghe incompatibili con una Milano decente. Poiché l'olocausto e l'antisemitismo esplicito è considerato inaccettabile nei grandi media europei, ecco che l'intervento di Bossi si è rivolto agli ebrei, io direi alle persone di religione ebraica, farebbe scandalo e sarebbe respinto. Allora il discorso precedente su che cosa fa notizia andrebbe allargato, dovremmo cominciare a considerare che l'hate speech di Bossi è anch'essa una notizia. Un ministro della Repubblica incita all'odio contro una popolazione già pesantemente vessata e discriminata, vilipende una religione professata da centinaia di milioni di persone, si mette in qualche modo fuori dalla comunità civile democratica. Forse non è una notizia, forse non si dovrebbe esporre chiaramente lettori, ascoltatori, spettatori che di questo si tratta, si chiede Lorenzo Guadagnucci. E se lo sono chiesti tantissimo i giornalisti italiani, mentre per i giornalisti europei l'Italia era un paese dove c'era al governo e aveva alcuni ministeri un partito di estrema destra, destra xenofoba, chiamato così in tutti i media, da tutti i media europei, soltanto che quando si parlava degli alleati invece in Italia di questo partito non si usava estrema destra xenofoba, quando si usava dell'equivalente in Polonia, Germania, Francia, Inghilterra, i giornalisti italiani usavano la locuzione estrema destra xenofoba, che come tutte le estreme destre xenofobe poi sottostà a delle storie, nasconde delle storie di corruzioni, speculazioni immobiliari, insomma di assoluto degrado e insicurezza per chi gli sta vicino. Tuernano baletti dei ragali, farendo sali pulito, per Lucio e per l'utruva, lei sa non passa. Les musiques et les estrambores, les histoires de tous les ports, per cantar sont toujours d'accord, les sons nous passent. In la place, jamais lassé, par la basse, c'est son 31, in la testa, la voix l'est, dit la vie de ses sons prédicats, in la place, j'ai des casses, les estras, ici ne moulent pas, in la testa, j'ai des pestes, les sons nous passent. Tuerna la ribotta del fracas, mi fa rente tali butia, per le stile per lo trova, lei sa non passa. Te di non pinta sfa de fum, a chi si crama la marine, lo svole in cura du tristun, lei sa non passa. Dei fada, fuori gitare in libordia, mi gelus ne mori farda, lei sa non passa. Tingu hai senza pensamen, infama per lo batamen, filan deve lo firmamen, lei sa non passa. In la plaza, jamais lasso, palabasso senza 30 anni, di la testa, la voix l'est, di la vita senza predicare, di la plaza, c'è de casso, di se strassi si ne muore pa, di la testa, c'è de festo, lei so non passa. E dopo questa riflessione noi andiamo a vedere altri esempi di cattiva cronaca e di cattiva informazione. Per esempio c'è una testata online, ma insomma anche gli altri giornali cartacei non sono da meno, che ci dice che a Milano appunto in meno di un anno sono raddoppiati i Rom di Milano. Non danno mai però la fonte di questi censimenti, che si potrebbero chiamare insomma progetto Erode, ma non il gruppo musicale, ma Erode, quello che doveva sterminare tutti i bambini, perché non dicono mai la fonte delle notizie di questi numeri. E quindi, come si dice che il piano Maroni è l'emergenza contro gli stranieri, è tutta l'emergenza sicurezza, è stato bocciato dal Consiglio di Stato perché è incostituzionale e violava palesemente il buonsenso, ancorché le leggi italiane e le possibilità che ci sono purtroppo sempre di sgomberare le persone, ma era veramente incostituzionale. Come si dice tutto questo? Dopo l'eliminazione del piano Maroni del Consiglio di Stato e lo stop agli sgomberi voluto dalla giunta Arancione, l'emergenza nomadi si ripresenta a Milano con residenti esasperati per furti e degrado. Il numero di presenze dei nomadi a Milano sarebbe aumentato del doppio. Si usa questa locuzione verbale per non dire che si sta inventando di sana pianta. Con l'incremento della presenza di micro insediamenti nelle aree di messa e di 5 grossi insediamenti abusivi di difficile gestione. Tale situazione è stata messa in luce dal prefetto Gian Valerio Lombardi alla riunione del Comitato per l'Ordine e della Sicurezza. Ma che cosa ci dice il prefetto? Il prefetto ci dice: mi dispiace, venuto meno il ruolo di commissario straordinario a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del novembre scorso sul piano nomadi, che è stato giudicato illegale fondamentalmente, sono stati interrotti tutti gli interventi diretti alla chiusura dei campi irregolari e solo completate le azioni già in corso. Inoltre, da ricordare che anche la delegazione di Rom regolari e irregolari, che lo scorso luglio è stata ricevuta a Palazzo Marino dall'allora neosindaco Fisapia al fine di esporre le proprie richieste alla nuova amministrazione. E non si capisce che senso abbia questa frase, perché poi c'è un punto. La prima delle richieste fu è colpa loro, perché la prima delle richieste fu lo stop immediato degli sgomberi. Giustamente delle persone la prima cosa che ti chiedono è: smetti di perseguitarci. Alla luce della situazione attuale, quindi, la decisione del prefetto Lombardi di avviare un tavolo tecnico insieme alle forze dell'ordine da convocare in prefettura ogni settimana. Quindi nella città di Milano, dove c'è una cementificazione selvaggia, dove c'è una speculazione edilizia feroce, dove i licenziamenti sono all'ordine del giorno, dove c'è la crisi come in tutto il resto d'Italia, l'emergenza è monitorare le presenze dei Rom, prevenire la formazione degli insediamenti più piccoli con interventi immediati sul territorio, provvedere gradualmente alla chiusura dei campi più grandi. C'è una notizia su dove vorrebbero destinare queste persone? No, e forse è meglio che non lo dicono, perché vengono in mente delle cose terribili. Quindi, ancora una volta, c'è la crisi, c'è la disoccupazione, c'è l'emergenza economica, perché veramente non è che non si arriva più alla quarta settimana, anche sulla seconda si hanno delle difficoltà notevoli, ma il problema è sempre quello degli stranieri e dei Rom, di un certo tipo di stranieri, di un certo tipo di Rom. E addirittura poi possiamo vedere che cosa ci dice il Corriere della Sera: c'è un incendio in via Bonfadini. Il comune chiede, adesso diremo dov'è via Bonfadini, che ha distrutto un campo per Rom. Ma che cosa ci dice il Corriere della Sera? Milano, sempre mia Milano: incendio in via Bonfadini, distrutto campo Rom. Non è la prima volta che un incendio risolve i problemi delle amministrazioni e di chi vuole sgomberare le persone. 4 ore per spegnere le fiamme. Milano, alla telefonata di tale Giorgio, perché uno che avverte che c'è un incendio al campo Rom può essere sempre un buon tempone, alle 6:33 di mercoledì mattina i vigili del fuoco partono per via Sacile, zona Bonfadini, con 6 mezzi e sirene spiegate. Nessun ferito, riferiscono, ma un grosso incendio, doloso, non si può escludere. Tra bombole di gas, assi di legno, strutture precarie di un campo per Rom abusivo, sottolineano gli assessori adesso della giunta Arancione, Maiorino, politiche sociali, e Marco Granelli, sicurezza, in visita tra i resti carbonizzati. Presto andrà chiuso, per noi è indispensabile e non discutibile. A quel punto arriva l'ex vice sindaco Decorato, che invece di pensare ai problemi della corruzione del proprio partito dice: noi l'avevamo sgomberato più volte, al punto che i nomadi avevano rinunciato a insediarsi, li avevano minacciati talmente tanto. Questa giunta ha perso troppo tempo, aggiunge l'ex responsabile del welfare Mariolina Moglioli. Una vecchia questione con il rogo e la distruzione di un terzo delle baracche che diventa urgente. Ma qual è la colpa di questi 100 Rom rumeni che hanno rifiutato gli aiuti? L'area destinata al cantiere della Paullese, già a dicembre ai 100 rom rumeni era stato dato un avviso di sgombero, adesso sono diventati 300. Chi è arrivato dopo non ha diritto agli aiuti, e se gli aiuti sono che ti distruggono il campo, avverte Granelli. A maggior ragione se è tornato dalla Romania dopo aver preso gli incentivi. Gli incentivi sono tra i 300 e i 150 euro a persona. Voglio dire, è vero che la Romania è un paese dove un litro d'olio costa 12 euro, ma con 150 euro non ci vivi molto. Sono incentivi abbastanza ipocriti, quella famosa carità pelosa, sono i famosi rimpatri assistiti. Vero, ci sono dei casi, adesso finiscono in fondo alla lista. Oggi un incontro con i padri somaschi, il Naga, il comitato Rom e Sinti insieme per fare un censimento, verificare arrivi, contare i bimbi che vanno a scuola e tentare una mediazione. Ma con chi? Con chi applica il fuoco? Nel quadro di un nuovo piano per i 2500 Rom a Milano, la cifra è stata messa sul tavolo al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Prefetto e questori hanno già fatto il punto. Dopo che il Consiglio di Stato, di nuovo, cioè a questi le leggi quando gli vanno contro, loro vogliono legalità e sicurezza, ma non la legalità delle leggi che dovrebbero rispettare tutti, la legalità delle leggi che gli pare a loro, perché c'è il Consiglio di Stato che a novembre ha smontato l'emergenza Rom. Il prefetto dice: sono preoccupato per la percezione di un aumento delle presenze. Cioè, vabbè, lasciamo perdere, perché le presenze si contano e non si percepiscono. Non ci sono più persone, ma una maggioranza, non ci sono più persone, replica la rappresentante della giunta, ma una maggiore diffusione sul territorio dopo la chiusura dei campi più grandi. Il comune chiede al governo di sbloccare 5 milioni di fondi del piano Marroni oppure di stanziare nuove risorse. Gli sgomberi senza mediazione sociale sono risultati fallimentari. Serve un percorso di inclusione per superare i campi, forse una casa. Ipotesi è partire dai bambini, cioè sempre coi bambini, ce l'hanno, hanno un'ossessione per i bambini, un'ossessione che, voglio dire, è quasi insana secondo me. Utilizzando i fondi della 285, la legge per l'infanzia, come fai a tutelare i bambini se non tuteli gli adulti che hanno cura di loro? Questa è una domanda che loro non si fanno. Quanto alla sicurezza, Granelli aggiunge e annuncia un tavolo settimanale coordinato dal questore per contrastare l'illegalità ed evitare nuovi insediamenti. Significa anche chiedere ai proprietari, soprattutto Ferrovie e Poste, di erigere cancellate e di vigilare su aree vuote prima che siano occupate. E ancora qui ritorna la speculazione. Quindi, a chi serve l'emergenza nomadi? A chi vende cancellate? A chi deve? Alle agenzie di vigilanza che devono vigilare sulle aree vuote per impedire a gente che non ha un tetto di arrivare in un posto disabitato magari da anni o vuoto da anni e cercare lì di migliorare la propria condizione abitativa, visto che se non se la migliorano da soli non gliela migliora nessuno. Invece, informazione sbagliata, finta, farlocca, è quella di Repubblica del 4 aprile delle 19.06, che mentre il prefetto di Milano dice che lui ha la percezione che il numero dei Rom e delle Rom sia aumentato, insomma ce lo dice il prefetto, e convoca un tavolo settimanale, Repubblica parte tranquillamente e dice: Rom, presenze raddoppiate, prefetto avvia tavolo permanente, presenze di Rom di nomadi raddoppiate rispetto a un anno fa, con micro insediamenti nelle aree dismesse e 5 grossi insediamenti abusivi di difficile gestione. Questo è il quadro tracciato oggi dal prefetto Gian Valerio Lombardi, che invece in un virgolettato letto prima diceva che lui aveva la percezione che fossero aumentati e non diceva assolutamente di avere la sicurezza. Ma così si incita all'odio, al razzismo. È bello, è molto facile scagliarsi contro gli hate speech di un leader dell'estrema destra, della destra xenofoba italiana come Umberto Bossi e come qualunque leghista. Più difficile è trovare il razzismo nei media mainstream, che, dando per assodate notizie improbabili e ancora da verificare, ci parlano di emergenze e di paure che esistono soltanto nella mente di chi le scrive e che servono soltanto a vendere meccanismi di videosorveglianza, di incentivare appunto la paura, incentivare il fatto che ti devi comprare tutti gli antifurti possibili e immaginabili per difenderti, che, visto che questo paese sta assolutamente diventando ogni giorno più povero. Ma insomma, i soldi per queste cose, per la cosiddetta sicurezza, bisogna assolutamente trovarli. Della sera non è da meno, e quindi nella rubrica ci scrivono dei lettori, ci dice che appunto molti lettori scrivono e pubblicano le lettere dei lettori, poi vai a capire se è un lettore, se è un giornalista, se è un giornalista lettore, se è nome finto, se è nome vero. Però che cosa scrivono i lettori del Corriere della Sera? Che il ritorno dei nomadi si sta lentamente facendo vero, perché stanno ripopolando il quartiere da cui non sono mai andati via, stazionano in una situazione, in una zona attigua, quella sgomberata, visibile dal cavalcavia Bacula e riconoscibile da cumuli di immondizia. E quindi questa lettrice scrive che insomma c'è questa emergenza desolante, lo spettacolo di negligenza e sporcizia. Qui il Corriere della Sera, di cui un'autorevole firma, ci parla sempre del razzismo e di quello che stanno subito gli italiani e di, insomma, di tutto quello che bisognerebbe cercare di capire prima di dare di giudizi negativi sugli immigrati. Qui insomma il Corriere della Sera esce al naturale e ci dice appunto che i Rom fanno assolutamente paura, che sono sporchi, ci dice appunto che lo spettacolo è desolante, c'è negligenza, sporcizia, ne sono uscito con lo stomaco girato su me stesso, le pulizie sono fatte di mattina, solo di mattina, e quindi insomma è una cosa veramente penosa. E anche questo fa parte della preparazione all'odio e al razzismo che quotidianamente tutti i media, tranne alcuni, fanno nei confronti delle proprie lettrici e dei propri lettori, in maniera che quando poi ci sarà la notizia di deportazioni di massa vietate dall'Unione Europea, ma si sa l'Unione Europea deve essere rispettata con le sue direttive soltanto quando si parla del TAV, soltanto quando si parla del pareggio di bilancio, quando si parla delle direttive che la stessa Unione Europea si trova costretta a dare nei confronti degli sgomberi degli esseri umani residenti nel territorio dell'Unione Europea, lì le direttive vengono assolutamente lasciate nel cassetto e non si invocano. E quindi ci sono anche direttive sull'uso del linguaggio che bisognerebbe usare quando si parla di minoranze, ma queste direttive vengono usate insomma un po' come carta straccia, quando invece gli interessi sono quelli di portare le persone a pensare che ci sia un'emergenza reale e che quindi i soldi pubblici che potrebbero servire per rifinanziare case, la ristrutturazione delle case di edilizia popolare, che potrebbero servire per incentivare l'apertura di nuovi presidi medici, l'apertura di nuove scuole, l'apertura di nuovi asili, insomma per fare stare veramente bene tutta la popolazione residente nel nostro paese, no, quello non bisogna assolutamente dirlo. Ma tant'è, questo è lo stato delle cose e questa è la queste sono le tendenze che si riscontrano leggendo, ahimè, come faccio io, tutti i giornali che mi capita di leggere, che insomma mi ricerco pure, vedendo insomma il linguaggio e quello che sottendono, raccontando di degrado e usando certe parole soltanto quando si tratta di stranieri poco tutelati, Rom e Sinti, e usando altro tipo di parole quando si tratta del degrado invece dei vari decorato, dei vari lusi, dei vari delle varie persone che sono state invece implicate in scandali dove la sottrazione di denaro pubblico è stata veramente grave, è veramente degradante e ha veramente danneggiato il paese nel quale viviamo. Anche lei, questa cantante, ha subito tanti sgomberi nel paese dove viveva, ma poi insomma è riuscita a fare valere i suoi diritti, ma è un caso su tanti. E allora invece noi di sgomberi in sgomberi ce ne andiamo da Milano a Latina, parliamo dell'adesso campo per Rom di Alcarama, facendo una breve rassegna stampa su tutto quello che si parla di tutto quello che è successo insomma in quest'anno e che non ha assolutamente avuto risalto per niente. Il terreno vicino alla discarica interessa ai clan, il caso in Senato, Alcarama ombre di mafia, così titolava Latina Oggi del 27 gennaio del 2012. Ci sono pure le ci sono state anche delle interrogazioni parlamentari su questo e vediamo che cosa ci dice il sospetto di mafia. La parola mafia insomma è sempre, dovrebbe insomma fare interessare delle persone che di solito insomma vanno farneticando di lotta e di legalità, ma comunque non solo il pizzo all'interno della comunità Rom di Alcarama, ma anche il sospetto sempre più forte che dietro i guai che potrebbero portare allo sgombero finale ci siano i clan italiani che da tempo si stanno occupando della discarica e dei terreni limitrofi. Si sa che agli invasi di Montello a breve dovranno essere ampliati i terreni necessari adiacenti le discariche di Monfalcone, in parte sono di proprietà di soggetti borderline sul piano dell'ordine pubblico, che è una parola, cioè una definizione meravigliosa. Se fossero stati rom si sarebbe detto di tutto, invece siccome sono cittadini italiani e anche di un certo peso, vista insomma l'ombra della mafia, soggetti borderline sul piano dell'ordine pubblico, in parte stanno per essere acquistati da soggetti interessati al business dei rifiuti, mentre un piccolo fazzoletto di quel terreno è ancora di nessuno, anzi è di Alcarama, degli zingari fastidiosi che adesso hanno pure litigato al loro interno. Non che c'è stato un gruppo che vessava un altro, hanno litigato, ma si sa, insomma è difficile chiedere la verità a chi scrive sulle colonne dei giornali. Ogni giorno che passa intorno alla vicenda di Alcarama si addensano nubi nere sporche, quasi quanto i rifiuti che da 30 anni si ammucchiano a Montello. E anche qui un bel paragone tra presenza di rom e immondizia. E su questo si riferisce l'interrogazione presentata ieri dal senatore Roberto Di Giovanpaolo ai ministri dell'Interno e per la cooperazione e l'integrazione, nella quale parla appunto del progressivo smantellamento di un campo di accoglienza che potrebbe essere un modello per il Lazio e che invece è descritto come un vero e proprio inferno. Alcune famiglie infatti la scorsa settimana hanno denunciato alla questura di Latina di essere costrette a pagare somme di denaro dietro minacce per poter occupare le baracche di Alcarama. Il pizzo era imposto da capi di famiglia dominanti presenti all'interno del campo che di fronte ai primi dinieghi avevano incendiato le baracche delle vittime. Davanti a quel rogo avvenuto alcune settimane fa, ed è un articolo del 12 gennaio, la polizia non è riuscita ancora a risalire gli autori e il comune inspiegabilmente ha minimizzato, fornendo addirittura una versione che accreditava l'atto vandalico o punitivo e nel contempo ha fornito coperte, letti e indumenti nuovi. Ma nel giro di poche ore è accaduto l'irrimediabile. Le famiglie vittime di Pizzo, presentando la loro denuncia, hanno svelato la terribile verità sul campo di Alcarama, che va ricordato, è stato costruito e condotto dal comune con soldi della Regione Lazio. Ma hanno pagato a caro prezzo quella denuncia. Nell'arco di 2 giorni 44 rom, tra cui 21 bambini, sono stati cacciati dalla struttura, costretti a dormire all'aperto, prima alla stazione di Cisterna, poi nel cortile della Polizia Municipale di Latina, che aveva anche chiuso i cancelli ed era andata via, infine nelle chiese della città. Aiutati da volontari e cittadini che hanno fornito cibo, vestiario e coperte, la situazione che si è venuta a creare è per molti versi paradossale ed ognuno dei soggetti istituzionali coinvolti ha fatto almeno una figuraccia. Le vittime che hanno denunciato sono costrette alla diaspora tra Latina e Cisterna. La Caritas dice di non avere letti disponibili, il dormitorio pubblico è al collasso perché già ospita senza tetto. E quindi anche la Caritas ha le sue responsabilità, ospita troppi senza tetto. Il comune di Latino ha mostrato smagliature vistose quando ha affidato il caso ai vigili urbani e questi ultimi non hanno trovato altra soluzione che far accampare i rom nel cortile della loro sede. Intanto le famiglie che praticano le estorsioni continuano tranquillamente a stare dentro la struttura attrezzata di Alcarama, mentre all'esterno c'è già pronto a sgomberare tutto il campo e forse a smantellare ciò che è stato costruito negli anni 70 per volontà dei sindacati come prima avanzata allora forma di assistenza e di integrazione. Certo, forma di assistenza e integrazione vicina alla discarica. Dietro l'angolo c'è la camorra che finalmente si toglierà dalla testa il problema dell'ultimo lembo di terra che ostacola l'ampliamento della discarica. E complimenti a tutti. Questo ci diceva il 12 gennaio Latina Oggi nelle sue pagine di cronaca. La verità è che poi le persone, le 44 persone, quasi tutte, che hanno denunciato di subire estorsioni, sono state invitate ripetutamente, come avete sentito, di venerdì ma anche di giovedì dalle varie corrispondenze, a ritirare la loro denuncia e sono state tutte accompagnate e obbligate al rimpatrio assistito, un rimpatrio assistito scortato dagli agenti della Digos. Dopodiché di questo insomma non se ne parla, ma noi andiamo a vedere che cosa succede, perché poi nel frattempo in questo bailam in cui appunto gli interessi camorristici, come dice la giornalista, interessi insomma di chi vuole avere assolutamente il territorio libero e non vuole che ci sia una isola non gestibile per poter ampliare la discarica vicino al campo, noi andiamo a vedere che cosa è successo, di che cosa si tratta, che cosa è la sicurezza e la legalità quando a subire le e a vivere una situazione di insicurezza sono delle persone, in questo caso delle famiglie rom rumene, che hanno denunciato, come molti cittadini avrebbero fatto, il fatto di subire delle vere e proprie estorsioni, quelle insomma che si chiamano pizzo. Che cosa succede? Succede che all'ospedale di Latina si presentano due persone, e questo insomma noi prendiamo questa notizia dal giornale e dal sito dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Latina, non lo prendiamo questa notizia da un organismo di controinformazione, che sul proprio sito mette quello che ha pubblicato il Messaggero il 29 gennaio del 2012. Il sottotitolo è: i medici evitano il peggio, estorsioni, domani gli interrogatori, due nomadi in ospedali per portare via una bambina ricoverata. La bambina ricoverata era appartenente al gruppo che aveva sporto denuncia. E quindi la bambina deve venire con noi. L'ultimo tentativo di intimidazione è avvenuto in piena notte all'interno dell'ospedale Santa Maria Goretti. Alcuni appartenenti alla famiglia di Ionornea, noto come Fernando, arrestato poche ore prima per la vicenda delle estorsioni di Alcarama, hanno provato a vendicarsi in ospedale. Infatti è ricoverata una bambina del gruppo che ha sporto denuncia nei confronti di Fernando e che, oltre a mandare in carcere il capo, ha fatto arrestare anche altre due persone. Sono tutti accusati di estorsione aggravata in concorso e domani saranno ascoltati dal giudice. Nel frattempo il clan, che stando a quanto emerge dalle indagini gestiva il a suo piacimento il campo, non è stato a guardare. Ora anche qui, per amore di verità, bisogna dire una cosa: che se delle persone sono ospitate tra virgolette dentro un campo di accoglienza che prima era stato fatto per accogliere profughi, i richiedenti asilo provenienti dall'Africa, ma non ha assolutamente importanza, è un campo che è stato fatto per appunto accogliere delle persone che hanno dei problemi, richiedenti asilo oppure perseguitate nel loro paese, come in questo caso i rom rumeni. E non è che si può lasciare tutto all'abbandono e dopodiché si dice c'è un gruppo che spadroneggia. Te dovresti, te che hai la responsabilità, te ente locale, dovresti organizzare un servizio di gestione del campo. Anche qui molto facile dire a uno e nominarlo: tu sei il responsabile del campo, e dopodiché sono fatti tuoi e l'amministrazione se ne disinteressa. È chiaro che questa persona, non essendo formata per gestire un campo, perché aveva lui le sue esigenze da essere da persona, non era un operatore sociale formato per essere operatore sociale o un gestore di comunità. Di conseguenza è inutile poi accollare all'inadempienza degli enti locali le estorsioni fatte da una persona che è responsabile per le estorsioni e le intimidazioni che ha fatto, che non glielo diceva nessuno di farle, non era obbligato. Non è che i responsabili dei campi devono per forza essere violenti, sopraffattori e disonesti, ma il punto è che non c'è stato mai una rete di evidentemente una rete di persone che gestivano il campo e che si occupassero della gestione stessa. È come dire: c'è un ospedale, il medico viene una volta al giorno, dopodiché i malati si autogestiscono, ma i malati hanno bisogno di assistenza esattamente come le persone che richiedono asilo hanno bisogno di assistenza e di sapere e di avere a che fare con gli enti locali e di non avere la mediazione di uno che di mediatore culturale non ha assolutamente niente e che è stato nominato dall'amministrazione, è stato comodamente accettato come mediatore perché così si levava una patata bollente. Questo è il famoso problema annoso dei rappresentanti delle cosiddette comunità. Queste sono comunità perché sono comunità costrette ad essere comunità, perché sono tutte rinchiuse nello stesso posto, ma non sono persone che liberamente hanno scelto di stare insieme. Cioè, questa cosa si può parlare di un gruppo familiare che decide normalmente di vivere insieme oppure di separarsi, ma non è che persone che non si conoscono stanno insieme e diventano una comunità e quindi ci deve essere il rappresentante. In comune hanno soltanto l'esclusione sociale, hanno soltanto quello di fare parte di un ghetto. E quindi, per ragioni di sicurezza, i nomadi sono ospiti in strutture che non vengono rivelate, ma la bambina, a causa della polmonite, la bambina fa parte di uno dei, è figlia di una delle persone che ha sporto denuncia contro le estorsioni subite, la bambina causa la polmonite, e la polmonite la dice lunga sulle condizioni di accoglienza, è stata condotta in ospedale e in qualche modo la notizia è arrivata fino ad Alcarama. Anche che in qualche modo la notizia è arrivata fino ad Alcarama, insomma. Così in due si sono presentati al reparto Goretti, sono saliti al reparto di pediatria, dicendo di essere parenti, hanno portato a portarla via. Di fronte avevano la giovane mamma della bimba che, intimorita dalla loro presenza e probabilmente da nuove minacce ricevute, i medici hanno capito che qualcosa non quadrava, non si sono fidati del racconto dei due e alla fine hanno desistito. La polizia valuta anche questo nuovo episodio. E qui, insomma, i commenti si lasciano all'intelligenza e alla sensibilità di ascoltatrici e ascoltatori. Ciò che è accaduto, però, ci dice il Messaggero, la dice lunga sul clima che si respirava all'interno di un campo che solo all'apparenza era un modello di integrazione, sì, integrazione con la discarica. Il capo Fernando, arrestato con l'accusa di gestire la vita del campo solo in cambio di soldi, poi il capo, ancora questa, insomma, questa antropologia d'accatto che vede i rom gestiti da un capo, ed è tutto strumentale alle inadempienze dell'amministrazione pubblica. Aveva ingannato tutti, gente del borgo, volontari, rappresentanti delle istituzioni, giornalisti, ma il problema è, evidentemente, questi non c'era una persona che distribuiva i beni che arrivavano al campo, venivano lasciati lì all'agio di questa persona che ne faceva ciò che voleva. L'ultima volta, il 27 dicembre, un incendio che le indagini hanno appurato essere doloso. Ringraziamo i vigili del fuoco, aveva detto Fernando, e la polizia per il loro intervento in questi giorni di festa. Poi era tornato a sollecitare una soluzione. Qualche giorno dopo, arrivati i container, aveva alzato il prezzo dell'affitto. Servivano 300 euro nelle baracche bruciate e il doppio nella nuova sistemazione. E questa persona, che poi è stata arrestata, ha potuto agire senza appunto che ci fosse una sola persona, tranne i volontari che abbiamo sentito più volte nel corso di questi mesi e anche la settimana scorsa, e anche i volontari non hanno avuto nessuna tutela. Quindi era un'accoglienza assolutamente lasciata all'improvvisazione, e le persone che avevano a che fare con questo campo, che non avevano alcun interesse, come appunto le persone che abbiamo sentito da questi microfoni, non sono state minimamente tutelate, perché è sempre la stessa cosa. L'amministrazione preferisce avere una persona di riferimento, che poi, insomma, abbiamo visto tante volte che combinano più guai che non cose vere, perché poi sono persone nominate dall'amministrazione, ammesso che ci siano possibilità diverse, e sono rappresentanti dell'amministrazione presso il campo, non sono rappresentanti del campo presso l'amministrazione, sono le persone che piacciono di più all'amministrazione, e questi sono i risultati. E quindi questi esempi abbastanza esplicativi alle 11:21 di come vengono gestite le politiche di accoglienza in questo paese. Latina è un paese governato dalla destra da sempre, ma insomma adesso sullo sgombero del campo per Rom di Alcarama si stanno ricompattando un po' tutti. Sentiremo poi in seguito anche la voce che ci ha raccontato da diversi mesi quello che è successo. E insomma, dopo queste due storie orribili di discriminazione e di speculazione sulle povere persone, sempre fatte da gente appartenente alla destra, sempre fatte da chi? Ma in questo caso, perché poi, insomma, quelle romane sono fatte da adesso da una giunta di destra, ma prima c'era la giunta di sinistra, e purtroppo i risultati non sono molto diversi. E quindi, e lo dico e diciamo sempre purtroppo, perché ci piacerebbe avere una differenza. Certo, si potrebbe dire c'è meno violenza negli sgomberi, neanche questo si può dire, visto le cronache che sentiamo e vediamo ogni giorno. Di speculazione edilizia si parla anche nel sesto municipio, perché insomma una settimana fa è stata sgomberata un gruppo di persone che vivevano veramente in mezzo ai rovi, perché c'è un'area che ha terreno agricolo, che è destinata a terreno agricolo, che non può essere edificata, che però è di un privato, un'area di fronte praticamente i lavori della metro, della metro C, è un'area che non può essere edificata, che il cui padrone chiede sempre il cambio di destinazione d'uso, ma non l'ha finora ottenuta. Ci stavano dei poveracci e delle poveracce che vivevano realmente nel Canneto, lì sono andati a sgomberarli. Perché? Perché evidentemente minacciavano la sicurezza dell'erba, e quindi sono stati sgomberati senza avere, diciamo, nessuna soluzione abitativa, neanche temporanea. E questo è quello che succede nella nostra città, questo è quello che succede nei nostri territori, nel silenzio di tutte e tutti, perché, come diceva una persona che non era assolutamente un rivoluzionario, ma che ha fatto fare tanti passi avanti alla gente della quale perorava i diritti, cioè Martin Luther King, non mi spaventano le parole dei miei nemici, ma il silenzio dei miei amici. E quindi 11:23, Roma Roma finisce oggi così, tra pochissimo altre corrispondenze. Un saluto a tutti e a tutti, soprattutto a chi è costretto alla propria libertà personale. O devla, tu sa i gelaccio. Dai de suca, i genjones. Hoppa! Hoppa! Bye. Jecane kalle balengi, da je šukale jak hengi. Joj, temerav. Jamoja.